mettere in attesa, capito? In attesa ci vuole tempo, amalgama, devono cominciare a capirsi tra di loro, sai, non c'è uno di una nazionalità o quella all'altra, compreso l'allenatore, quindi è un problema. Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Alla buona per Higuain che prova a salire, Higuain lavora bene questo pallone, Higuain! 2-0 Juve, primo gol in trasferta di questo campionato e nel giro di 3 minuti crolla la diga e la Juve mette il match in cassaforte. Poi il numero da parte di Papu Gomez che poi va a cercare proprio Petagna in area, Petagna! Secondo gol consecutivo per Petagna, al 9 minuto, l'Atalanta già in vantaggio. Incredibile colpo di scena, il fuoco che esce dal posteriore della Mercedes, del leader incontrastato di questo Gran Premio. La sua delusione, la sua rabbia, cambia tutto di nuovo, cambia tutto per il Gran Premio, cambia tutto per il Mondiale. Un grande battaglia, pulito, duro ma pulito, sì, anche quando ho visto Lewis fuori ho detto questo gara è il mio. Ma Bonaventura, eccolo il suo cross con il destro, non esce Consigli, va Paletta più in alto di tutti, ma non ci arriva, da fuori Locatelli, che gol, il primo in Serie A, Manuel Locatelli, fantastico, e gol del 3-3, sinistro all'incrocio. La dedica è per tutta la mia famiglia, è per mia mamma, mio papà, mio fratello Mattia e mia sorella Martina e tutti quelli che mi vogliono bene hanno creduto in me. Io non ci credo, è il momento che aspettano tutti i bambini nella loro vita e credo che sto sognando, devo ancora realizzare quello che ho fatto. Quando ho sentito il boato, ho guardato la palla che andava lì, non ci credevo, ho cominciato a correre ed era tutto vero. Da Florenzi, forte peso dentro, c'è doppia deviazione, la palla in porta. Sì, c'è da dire che ieri ci siamo divertiti tra il a messe di gol a San Siro, tra Milan e Sassuolo, le occasioni di ripetizione di Roma-Inter. Io non so come la pensate voi, secondo me è un obbrobrio di partita, per quanto divertente, però so che esiste anche una scuola di pensiero diversa secondo la quale 36 tiri in 90 minuti tra due squadre che praticamente non hanno difeso è il massimo che si possa chiedere. Vi chiedo cosa ne pensate. 800 24 00 24. Oggi poi il tema è un altro. Pierluigi Pardo, ciao. Ciao. Ti sei divertito ieri sera? Roma-Inter? Sì. Ma sì, sì, io mi sono divertito perché penso che comunque alla fine sia stata una buona partita. Sono d'accordo con quello che dici tu. Sicuramente è stata una partita anche di imperfezioni. Non è stata soltanto una partita di qualità. Molte delle situazioni che hanno elettrizzato il pubblico sono nate anche da degli errori o da delle interpretazioni non perfette. Però credo che complessivamente sia stata una bella partita. Meglio questa di robe più noiose, sicuramente. Insomma. Sì, sono d'accordo. È vero. Anche Milan Sassuolo è stata così. Se tu parli Pier, con Arrigo Sacchi, lui ti dirà che la partita perfetta è Milan-National Medellin. 120 questi, minuti di nulla. Perché erano, lo salutiamo Arrigo, sì. Erano Chiaro Stupirone, erano due orchestre, e invece ieri erano un gruppo di solisti. Ma pure un po' scarsi dietro, un gruppo di solisti pure ragione, un po' scarsi poi, dietro. Insomma, Arrigo è il maestro e ha ragione sicuramente, però io penso anche una cosa invece, che dal punto di vista dell'organizzazione Roma-Inter di ieri non è stata certamente una partita perfetta. Però un'altra cosa che certamente sta molto cara ad Arrigo e a tutti quelli che amano il calcio è anche invece la mentalità propositiva, e da questo punto di vista Roma-Inter ieri è stata una bella partita, nel senso che tutte e due hanno comunque giocato per vincere e questo giocare per vincere ha fatto sì che poi nell'organizzazione, in un ambito di organizzazione che non è ancora perfetto, ci fossero tutte queste occasioni. Quindi sono pienamente d'accordo a metà, come diceva Gigi Garcia, con te. Sì. Perché da un lato sì, da un lato è certamente tanti errori e quindi disorganizzazione, ma dal punto di vista invece dell'entusiasmo, e dell'atteggiamento. Secondo me invece Roma-Inter ieri è stata una buona partita, e Milan-Sassuolo è stata una buona partita, decisa anche, diciamolo, tanto per essere chiari, anche agli episodi. Sì, poi qualcosina diremo. A proposito, dopo le 15 vi raccontiamo come sarebbero finite le partite di ieri se la VAR, la moviola in campo, non fosse in fase sperimentale ma fosse operativa al 100%. Un amico, Massimo, ci sgrida, dice: non è stata un obbrobrio, in Inghilterra si gioca così, tutto il resto è noia. Per carità, i gusti sono gusti. Il tema, dicevo, però è un altro, e sono le parole di Sarri. Le abbiamo già sentite ieri. Sarri che dice: la Juve è di un'altra categoria, non ho mai pensato di fare un campionato parallelo. Insomma, dice in sostanza: il campionato è finito qui. Il problema è che qui è il 2 ottobre, e quindi io credo il tema non sia se la Juve è più forte o meno forte del Napoli, cosa che evidentemente chiunque abbia un po' di buonsenso dice. Il tema è: non è troppo presto il 2 ottobre per arrendersi? No, ma non mi piace il messaggio che passa, insomma. Io ribadisco la mia assoluta il mio assoluto apprezzamento per il Sarri allenatore, che secondo me è bravissimo, e il mio medio apprezzamento invece per la sua parte mediatica, che è importante per un allenatore di un grande club come il Napoli. Ecco, su questo mi piace un po' meno, per carità, niente di male, insomma, poi non è che deve piacere a me, però mi trovo, mentre in campo mi esalta e lo considero veramente un grandissimo allenatore, ed è chiaramente la parte più importante del suo lavoro, secondo me lì ha ancora qualche margine di crescita. Io credo che questo passaggio, fatto passare il 2 ottobre, rischi di diventare un po' un boomerang nei confronti del gruppo, un po' un alibi, perché insomma, voglio dire, se il Napoli non può provare, non può neanche avere l'ambizione di fare la corsa con la Juve, che ci sta a fare? Oppure se il Napoli si accontenta, tra virgolette, della famosa frase quinto fatturato, quinto monte ingaggi, sì, cosa che peraltro posto, De Laurentiis ha già bacchettato Sarri dieci giorni fa. In questa ragione De Laurentiis, nel senso che il Napoli per me è la seconda forza del campionato, proprio lo dico in maniera abbastanza certa, da un punto di vista di valori, perché quest'anno ha una squadra più forte dell'anno scorso, al netto ovviamente della partenza di Higuaín, che non è un dettaglio, però certamente molto più profonda. Quindi è una squadra, secondo me, che vale quella dell'anno scorso, perché ha sicuramente un grande attaccante in meno, ma ha tante soluzioni in più, e quindi può fare una rotazione molto più robusta durante l'anno. Insomma, tenere Maximovic in panchina per così tante giornate è un lusso che Oppure gli altri che non hanno ancora esordito. Lo dai alla Roma, Maximovic, tanto per fare un... Sì, credo che giocherebbe titolare, ma forse anche nell'Inter, vista la difesa di ieri. Assolutamente, oppure dei giocatori che fin qui non si sono ancora visti. Diawara, per esempio, era uno che la Roma aveva cercato e che probabilmente giocherebbe da moltissime altre parti. Quindi, secondo me, il Napoli è cresciuto molto come profondità della rosa rispetto a un anno fa, e deve fare un salto di qualità. Sì, ma allora c'è da capire perché Sarri invece tiene questa linea. 800 24 00 24, vi aspettiamo. State con Sarri o con De Laurentiis, o state con Di Francesco, che dice che il Milan è più potente come società e si vede anche sul campo, oppure state con De Boer o contro De Boer, perché c'è anche chi dice la fase difensiva di De Boer è la stessa che andrebbe bene in Olanda, in Italia però non va bene. 800 24 00 24, traffico, torniamo. Tutti convocati. Qui altro che ciupiti di Popovic. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta... Tutti convocati. La Juve è di un'altra categoria e sta facendo il campionato da squadra di un'altra categoria. Noi a livello di squadra non abbiamo assolutamente mai avuto l'idea che il nostro campionato dovesse essere in parallelo con la Juventus. Noi siamo una squadra giovane, una squadra che deve crescere. Quindi se la Juve è di un'altra categoria e lotta per lo scudetto, voi no? Ma se loro inanellano una serie di cazzate mostruose, può darsi di sì, ma loro solitamente non fanno cazzate. Penso siano la società in Europa e ne fa meno. Quindi noi dobbiamo pensare a noi stessi, e anzi ti dirò di più, è l'ultima volta che rispondo alla domanda sulla Juventus. Sul ponte spento la bandiera bianca. anche chi lo difende Sarri. Messaggio di Arturo da Torino al 349-238-6666. Capisco che per voi addetti ai lavori sia preferibile un campionato aperto e incerto, ma le parole di Sarri sono vere. Raffaele Auriemma, ciao Raffaele. Ciao. Dai, dimmi cosa ne pensate a Napoli del Sarri che si arrende. Non discutiamo se la Juve è più forte o no. La Juve ha una rosa superiore al Napoli, punto. Il tema è un altro. Ma io ti posso dire come la penso. Su Napoli c'è un po' di divisione su questo argomento. Io difendo Sarri a prescindere, perché se il Napoli ha fatto quello che ha fatto nelle prime 9 giornate di campionato, lo deve soprattutto al suo allenatore, perché trovarsi al primo posto in Champions, trovarsi comunque secondi dietro alla Juventus, credo, poi può darsi pure che mi sbaglio, che possa essere stato un obiettivo iniziale prima ancora che cominciasse la stagione. Se ci dicessero, avessero detto il 2 di agosto, dopo nove partite sarete secondi in classifica dietro la Juve, primi nel girone B di Champions, nessuno avrebbe avuto nulla da obiettare. Credo che su questo possiamo essere tutti d'accordo. Sulle parole di Sarri invece ho qualcosina da dire, e non è la prima volta che mi pare l'allenatore non sia proprio coerente con quello che accade e con quello che noi vediamo, perché lui dice: se la Juve fa cazzate, allora sì, potremmo lottare. Allora mi domando, perché le fa il Napoli queste cazzate? Sì. La Juve non le fa. Perché ha il mal di trasferta, ad esempio, Pier. Sì, e poi fra l'altro io, ciao Raffaele, tra un po' ci vediamo. Ciao, Pier. Ti aspettiamo qui a Tigidaga in studio. No, io penso che il meno 4 dalla Juve Raffaele dopo 7 giornate non l'avrebbe firmato, ma giustamente, perché comunque sia 4 punti in 7 giornate sono tanti. Sì, tanto con un calendario non complicatissimo. No, con un calendario molto più facile di quello della Juve, fatto bene a dirlo, perché senza... Però la Juve ha giocato contro l'Inter, contro la Lazio, contro la Fiorentina, contro il Sassuolo. È un calendario nettamente più difficile rispetto a quello che ha avuto il Napoli e che hanno avuto le altre rivali, quindi questo mi sembra abbastanza indiscutibile. E poi il resto che ti devo dire, io penso che il Napoli sia una squadra capace di grandi picchi di gioco, e per questo, lo dicevamo qualche giorno fa, mi sembra una squadra più da Champions che da campionato, perché mi sembra più una squadra da grande prestazione, magari contro delle squadre che giocano a pallone, piuttosto che una squadra che riesce invece ad avere una regolarità di rendimento, che è quella della Juve, che è la vera grande differenza che c'è in questo momento in campionato. Io ieri ho fatto Empoli-Juve alla fine del primo tempo, insomma penso che anche molti tifosi della Juve fossero abbastanza appennicati, nel senso che comunque non è che la Juve abbia giocato in maniera strepitosa, ma questa è una forza, cioè la forza della Juve è che senza aver fatto cose eccezionali, senza aver quasi mai regalato del grandissimo spettacolo, è in testa con 18 punti. Higuain, che fino magari adesso un po' meno dopo ieri, ma comunque fino a qualche giorno fa sembrava ancora, non dico un corpo estraneo, ma che non avesse fatto niente, c'ha la media di un gol all'ora. Sì, quindi, ma lì stiamo alla limatura dei dettagli di una macchina, appunto, che diventerà perfetta, quando, non lo è ancora. No, io la però... Juve diventa perfetta, che facciamo? Vince 7-0 tutte le partite? Beh, ma alcune può essere. Ci stiamo germanizzando da questo punto di vista. Io credo che non sia questo il discorso. Io mi sono fatto l'impressione da osservatore esterno, ma magari sbaglio, è che Sarri continui a mandare dei messaggi interni. 10 giorni fa De Laurentiis gli ha risposto male, ma non sugli arbitri, gli ha risposto male ricordandogli che ha speso una marea di soldi sul mercato e quindi vuole che ci si comporti di conseguenza. Io penso che un allenatore abbia anche il dovere di farlo, abbia anche il dovere di lanciare dei messaggi che non siano completamente differenti da quelli della società che ha investito, che vuole un certo tipo di profilo. E questa è più di una sensazione, perché si sta reiterando. Sono concetti sui quali noi riflettiamo e pensiamo: perché Sarri poi si esprime in queste forme? Perché ha tirato in ballo la Juventus ieri? Juventus che tutto sommato ha fatto quello che doveva fare e ha perso contro l'Inter. Non è che la Juve ha battuto l'Inter, ha battuto la Roma e è venuta a Napoli e ha vinto. Ha fatto il minimo indispensabile che poteva fare anche il Napoli. Il Napoli ha solo un punto in più rispetto al Chievo, e il Chievo è una squadra che viene costruita per salvarsi. Allora la domanda è: perché Sarri non riesce a far rendere al massimo questa squadra nei momenti in cui si ha la sensazione che ha qualche difficoltà? Per esempio, facevo un po' di conti stamattina sul minutaggio dei calciatori del Napoli, e come l'anno scorso il Napoli ha 11 titolari e 2 riserve, tutti gli altri stanno indietro, e siamo dopo soltanto 9 partite. Allora perché personaggi, calciatori, rinforzi come Diawara, Rog e Tonelli per un ammontare di 40 milioni ad oggi non hanno fatto un minuto? Come funziona l'integrazione nella logica di Sarri, di quelli che arrivano da fuori? È questo che vorrei chiedergli, facendogli vedere le partite degli altri o facendogli mettere piede in campo come fa per esempio Montella con Locatelli, che ha già 101 minuti in 4 apparizioni? Si fa così o si fa solo con l'apprendistato oculare, ottico? Sì, che poi credo sia una delle risposte che aspetta anche De Laurentiis, ma non a parole, perché a parole ha già detto, e l'ha detto anche ieri, Sarri è una squadra giovane che deve crescere, la logica, la logica dice giovane, qualcosa di diverso. I giovani ce l'hanno tutti, i giovani se sono bravi giocano, se non sono bravi restano in primavera. Il Napoli ha dei giovani, se li definisce tali, che sono nazionali come Rog, come Diawara, sono calciatori già pronti. Ma se non gli fai fare almeno un minuto, due, tre, se non li metti 10 minuti in una partita già vinta, quando avranno questo ambientamento? Questo è un po', un'abitudine, un'abitudine di Sarri. Sì, ma è un'abitudine che va bene a Empoli. No, ma io sono d'accordo. Fuori da quel livello lì, se hai una rosa di 18 giocatori, devi usarli. Penso che lui qualcosa di diverso debba inventare da questo punto di vista. Non credo ci siano grandi discussioni. Perché altrimenti il vantaggio di avere oggettivamente 4-5 giocatori di qualità in più, che Napoli ha preso 3 centrocampisti e 2 difensori nuovi di buon livello, cioè Maximovic, Tonelli, Diawara, Rog e Zielinski, sono 5 giocatori, 5 signori giocatori, chiaramente qualcuno più di prospettiva, ma per dirti, ieri Piazza l'abbiamo visto entrare, no? a Empoli, a partita risolta, l'abbiamo visto entrare anche molto bene, nella migliore condizione possibile. Sarri questo tipo di abitudine ce l'ha un po' meno, perché probabilmente è abituato di meno ad avere nella sua carriera delle rose così robuste. È un piccolo ulteriore tassello, secondo me, della crescita di un allenatore bravissimo, sì, per carità, bravissimo. Non cambia, perché sennò poi allenatore bravissimo che ha fatto vedere delle cose in questi 14 mesi. Sì, però questo mesi. Salto deve farlo in fretta, Piazza. Però adesso la sua sfida è questa, la sfida adesso è questa. Deve fare questo salto. Ringrazio Raffaele Auriemma, grazie Raffaele. Ciao Raffaele, ciao, alla ciao, prossima. 800 24 00 24, stanno arrivando tantissimi messaggi, WhatsApp 349 238 6666. Riusciamo a fare prima della borsa Gaetano? Sì, Gaetano da Palermo. Gaetano mi ha detto, eccoci, che viviamo nel ghetto. Buongiorno a tutti, grazie della convocazione. Ciao Gaetano, dai. Ciao. Guarda, io penso che le dichiarazioni di Sarri ieri non sono piaciute a molti juventini per un semplice motivo. Prova a dare l'ennesima giustificazione al suo Napoli, anche ieri ha messo di mezzo il campo pesante, non so, come ha messo l'anno scorso l'orario, le 12.30 non gli andava bene. Io penso che le grandi vittorie sono grandi quando ci sono dei grandi avversari. Il Napoli è una grande squadra e spero che lui non usi questa giustificazione per sminuire la forza della Juventus. Per noi questo sesto scudetto è importante, forse il più importante dei 35, e spero che Sarri non porti avanti questa teoria, perché per rispetto dell'avversario e dei suoi giocatori. Io non credo che Gaetano che ce l'abbia con la Juve, lui. No, vuole sminuire forse un po' la forza della Juve con questo, ma anche un po' a discapito dei suoi giocatori, dei suoi ragazzi. Penso che non sia correttissima come cosa, però... Sarri penso che ci ha abituato a queste ennesimi alibi del campo, dell'orario, un po' anche ha stancato. Peccato, perché Napoli è una bella squadra, è forte, a volte gioca meglio della mia Juve, però si è squadra e la Juve è più squadra. Sì, però ogni tanto si perde. Grazie Gaetano. Francesco, dai, facciamo anche Francesco da Napoli. Francesco. Buongiorno. Sentivo dire che ha mandato dei messaggi, Sarri. Sì. Messaggi non li devi mandare, devi solamente allenare la squadra. Se voleva mandare dei messaggi quando gli hanno speso i soldini in estate, diceva: questi giocatori a me non vanno, perché praticamente se è entrato Maximovic solamente perché Albiol si è infortunato, addirittura sarebbe entrato Kirikes, come la vede lui, Tonelli che è un suo giocatore dell'Empoli, noi non l'abbiamo ancora visto, cioè Diawara ha giocato nel Bologna, ma è possibile che non riusciva a fare un minuto per sostituire Jorginho che era morto, ieri aveva l'ossigeno? è un problema di comunicazione, meno parla e meglio è. Grazie a voi. Sì, che è un problema, Pier, quando uno allena un grande club. È un problema, io ribadisco la provocazione della tuta, che non vuole essere una cosa sgradevole nei suoi confronti, però voglio dire, se uno dice il problema è la tuta, e ci può anche stare, che nel fondo, nella testa di un arbitro, di un assistente, ci possa essere un complesso, no? Che l'abito possa fare il monaco, mettiti la giacca. Questo lo ribadisco da quando l'ha detto, è una provocazione, ripeto, ma è una provocazione se non è che ci sta. Cioè, quindi se ti danno 18 giocatori, fanne giocare 18. Diciamo, l'epica di Sarri che si è fatto da sé, che ha fatto una grande gavetta, merita enorme rispetto e la sento su di me, nel senso mi piace da matti questa roba qui, perché è vero, perché è assolutamente però vero può essere e merita un grande applauso. Però adesso non ha più l'Empoli, adesso ha una grande squadra con dei grandi fatturati, con una forza anche grazie al suo lavoro collaudata, perché lo scorso anno questa squadra arriva seconda, non è arrivata settima, e quindi adesso la sfida è questa. E se la sfida e se realmente uno pensa che l'arbitro possa essere condizionato, ti metti una giacca e una cravatta. Si mette in condizioni. Abbiamo la borsa, ci mettiamo anche noi in condizione di non essere mandati via. Siamo un po' in ritardo, la borsa, poi torniamo subito dopo. Tutti convocati. Tra poco, nuove notizie. Pigia, il coso rosso, grazie. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Convocati. Noi stasera abbiamo vinto una partita contro una grandissima squadra, una grande Inter. Poi tutte e due abbiamo concesso qualcosa di troppo, come giustamente si saranno accorti anche dallo studio. Però questo sta poi nella voglia di andare a far gol, nella voglia di vincere le partite, e di conseguenza si perde un po' d'equilibrio, perché quando si attacca da una parte poi cominciare a rientrare, a prevenire dall'altra non è facile. Abbiamo perso la partita nella prima parte del tempo, perché io abbiamo sentito che la Roma ha fatto paura con noi, perché abbiamo dato la occasione di Roma con nostri errori. Queste Spalletti e De Boer, sapete che Iachini non è più l'allenatore dell'Udinese, è stato esonerato dopo aver perso in casa contro la Lazio. Il prossimo allenatore sarà Del Neri. Luigi Del Neri sarà presentato questo pomeriggio allo Stadio Friuli e dovrebbe dirigere già domani il primo allenamento, lo comunica l'ANSA. Tra l'altro questo è stato un lunedì particolare per gli allenatori italiani, ci sono due licenziamenti di italiani che allenavano in Inghilterra. Uno è Di Matteo, che è stato licenziato e allenava in Championship, e l'altro è il nostro amico Francesco Guidolin, che non è più il tecnico dello Swansea, ma lo sentiremo presto. Alessandro dalla provincia di Cremona. Alessandro. Sì, buongiorno, grazie. Eccoci. Per la convocazione. Sì, volevo parlare un po' delle dichiarazioni di Francesco ieri sera. Sì. Ma secondo me sono un po' delle scuse, dovrebbe prendersela un attimino più con i giocatori quando sei in vantaggio 3-1. La partita la devi mettere in cassaforte. Cioè, è vero poi l'errore dell'arbitro sul rigore, però anche Antei non c'è andato leggero. La spinta l'ha ricevuta, quindi sì. Io penso che è quello di Locatelli, la difesa era... No, ma poi sono anche stati due bei gol, cioè, quello di Locatelli straordinario. Ha ragione chi ci scrive dicendo che quella di Locatelli è una storia bellissima, e anche che questo è un campionato che sta finalmente regalando un po' più di spazio ai giovani. Adesso ho perso il messaggio, ma un amico ricordava che sabato sera la Lazio aveva in campo 8 under 23, e questo è certamente un segnale importante. Però sull'arbitraggio di ieri di Guida, insomma, io penso che sia sufficiente leggersi le moviole, Pier. Io credo che abbia fatto un arbitraggio assurdo, mi arbitrano malissimo, e penso che spesso, sai, poi gli arbitraggi possono essere sbagliati, ma con errori da una parte e dall'altra. Credo onestamente che il Sassuolo ieri abbia avuto un danno, credo che sia oggettiva questa cosa. Poi chiaramente ci sono delle qualità del Milan che vanno comunque sottolineate, perché nonostante il calcio di rigore poi riuscire a vincere la partita, sì, devi ribaltarla, devi lo ribaltarla stesso, quindi vai secondo su 3-2 Montella, ma devi ribaltarla. Oggi può essere legittimamente molto contento, perché si vede una squadra che ha spirito, che ha voglia, che non è ancora perfetta ma che prova a giocare a pallone. Da questo punto di vista la partita di ieri è stata una partita bella, bellissima, molto spettacolare. Però ecco, insomma, stiamo parlando di una partita arbitro, condizionata da un arbitraggio pessimo, esatto, perché c'era un rigore nel primo tempo clamoroso, e perché poi anche sull'episodio del calcio di rigore neanche comincia prima a trattenere l'avversario, quindi, sì. E a quel punto lì, sai, senza quel calcio di rigore probabilmente Sarebbe finita lì la partita. Non c'è la controprova. Non c'è la controprova, e complimenti al Milan. Perché comunque sì, certamente. Così rispondo ad alcuni messaggi che arrivano. Dopo le 15 lo facciamo l'esperimento di riscrivere con la VAR. Se la VAR fosse stata operativa, queste e altre partite. Perché attenzione, la VAR non è la moviola che si fa la domenica sera. E quindi non è detto che tutti gli episodi che avete visto in campo in questa domenica con la moviola e l'assistenza video per gli arbitri sarebbero cambiati nel giudizio. Biagio da Napoli, Biagio. Sì, salve, grazie per la convocazione. Io volevo tornare un attimo su Sarri e su quello che ha affermato sia Pardo che Auriemma. Cioè, in pratica Sarri ha spiegato benissimo i motivi per cui non ha fatto giocare né Diawara né Rog. Sono arrivati uno tardi e l'altro non ha fatto preparazione. Tonelli è ancora infortunato, cioè veniva da un infortunio, adesso è recuperato, e questo è il motivo per cui non li ha messi di loro in campo. Sì, però Biagio, poi, senza l'infortunio di Albiol non starebbe giocando nemmeno Maximovic. Diciamocela tutta. Come Diawara non ha fatto la preparazione, sì. E quindi è stato gioco forza, è stato costretto a metterlo in campo. Sì, però Maximovic ieri è stato uno dei migliori, quindi possiamo presumere che insomma all'inizio di ottobre anche Rogue di Diawara in un ruolo un po' più particolare, giovanissimo, è la prima volta che gioca. Quindi non sono pronti a giocare, non possono nemmeno fare un quarto d'ora in una squadra evidentemente stanca. Durante la partita non le puoi fare 10, quindi alla fine lo so, io anch'io avrei messo qualcuno a posto, avrei fatto giocare Allan togliendo Amsic e altri tipo Strinic sulla sinistra, però alla fine ogni argomento è buono per attaccare Sarri, e Auriemma dovrebbe sapere benissimo la situazione, dovrebbe ricordarsi quello che ha detto Sarri in conferenza stampa anche a Genova, che i giocatori non erano pronti per giocare, questo è quello che volevo puntualizzare. Va bene, Omar da Torino. Non posso dire, nessuno credo stia attaccando. No, ma non credo nemmeno io. Sarri, almeno non io, ribadisco, ma conoscendo Raffaele, figurati, Sarri è una cosa bellissima. Sarri, lo scorso anno, secondo me, se usciamo un attimo dal calcio, ci ha ricordato quante volte diamo delle etichette a delle persone senza conoscerle, no? Perché in tanti pensavano che fosse inadeguato, non era mai arrivato in Serie A, in realtà mancava la controprova, non sapevamo prima che allenasse il Napoli se sarebbe stato capace oppure no. È stato capacissimo, bravissimo, e questa cosa per me ci deve essere molto utile in molti momenti della nostra vita per non avere il prosciutto davanti agli occhi e i pregiudizi. Quindi massimo rispetto per Sarri. Detto questo, sommessamente si può anche dire che mentre il Sarri in campo è un allenatore fatto, finito, compiuto, che gioca un grande calcio, magari può avere qualche limite dal punto di vista del turnover e dal punto di vista del cambio modulo, cioè di creare qualche alternativa e qualche variabile in più, allo stesso modo si può dire che magari dal punto di vista della comunicazione può crescere e migliorare. Questo è quello che penso io, ma non toglie che siamo di fronte a una delle rivelazioni degli ultimi anni. Sì, per il lavoro in campo non c'è dubbio. Siamo quasi al traffico. Saluto Tommaso Labate, con cui apriremo il capitolo che riguarda l'orrore dobbiamo che abbiamo visto ieri sera all'Olimpico. Dobbiamo parlare di una tettoia. Però ragazzi, non mi potete chiamare solo quando perdiamo. Mi dovete chiamare pure quando vanno bene, perché così non va bene. Sì, però il problema è che l'Inter ha perso la metà delle partite più o meno che ha giocato. Quindi diventa complicato. Però dopo il traffico parleremo di questo e di altro. Tutti convocati. Poi si fa fatica, ragazzi. Tutti convocati. Pardo, l'Inter è come un gatto nero sull'Aurelia. Tu capirai. anzi un gatto, non nero, sì, gatto, sì, sì, che è un fine... patrizio. Sì, sì, no, io capirò, è un modo di dire, no? Credo... Fai capire tutto. È un modo di dire che dura poco un gatto sull'Aurelia, nel senso che arriva la macchina e lo mette sotto, credo che fosse questo il senso. Intanto sulla chat l'abate convoca tutta la chat, sintonizzatevi, lo diciamo agli amici, sul tema del giorno, che è la tettoia. La tettoia. Senti, tettoia. Tommaso, ma De Boer merita ancora comprensione o cosa? Cioè tu di che scuola fai parte? Io sono un deberiano. Non ortodosso, però sono un deberiano convinto dalle prestazioni, soprattutto quella con la Juventus, quindi io poi faccio parte di una scuola umana e politica che considera il segretario del partito comunque da sostenere, e quindi sono con De Boer fino a che ci sarà De Boer, e spero ci sia a lungo, perché ha dimostrato comunque di essere uno che sa inculcare una mentalità in una squadra che però la prende. È un po' come se avessimo le targhe alterne noi, e quando il giorno dispari giriamo bene, quando è domenica pari non funziona, però vedo delle ottime possibilità di miglioramento. Cioè, tu vedi fondamentali. È una molto positiva. Sì, assolutamente. Io quello che non capisco, e allargo anche a Pierluigi Pardo o ai amici a casa, è questo: De Boer è qui oramai quasi da due mesi, siamo entrati nella settimana che porta i due mesi, che non sono comunque pochi, e per carità, va bene la mentalità, ma questa è una squadra che continua a sbagliare gli approcci, e lo ha fatto anche ieri, che ha delle difficoltà pazzesche in difesa, che è la cosa numero uno che un allenatore dovrebbe provare ad organizzare, e quindi... È una squadra con del talento, ma con c'era una vecchia pubblicità, fra l'altro credo proprio di Pirelli, quindi, che diceva la potenza è nulla senza il controllo. Ecco, ci sono delle energie, dei talenti nell'Inter, ma mi sembra che queste energie e questi talenti ancora non siano completamente amalgamati e incanalati in un sentiero che poi porti a dei risultati positivi. È una squadra molto umorale, sicuramente. Delle cose si intravedono, ad esempio si è parlato molto della dipendenza da Icardi, che è un tema, ma Banega sta confermando pienamente di essere il giocatore, anche qui insomma l'avevamo detto varie volte, Banega era ovvio che facesse bene, perché è un grande giocatore, punto. E quindi si vede che insomma ha delle qualità. Handanovic è sempre un punto di riferimento là dietro, ieri è stato decisivo in tante circostanze, quindi dei paletti ci sono, ripeto, però è un talento che ancora non è completamente organizzato e incanalato. Fino ad oggi ha beccato una sola vera partita perfetta, che sarà quella con la Juve, ha beccato una buona prestazione solida ad Empoli, e poi per il resto però tante luci e soprattutto tante ombre, e questo è un dato di fatto abbastanza oggettivo. Non c'è il rischio che sia un po' integralista Tommaso De Boer, cioè un po' c'è l'opportunità un po' olandese, incapace di adattarsi pienamente. Questo non lo so, però io penso, non se parlo a bassa voce, ma sto in uno studio radiologico dove mi sento tipo Verdone in compagnia di scuola quando sbaglia a casa, vengono tutti verso di me, non so perché, mi sto provando a isolarmi. No, io penso che l'Inter sia come il talentuoso studente universitario che è forte e cosciente del proprio talento, inizia a studiare per l'esame quando sta proprio molto sotto esame, traduzione, dopo che abbiamo pigliato il primo gol sistematicamente. In certi casi prendere coscienza all'ultimo può servire per rimontare, per pareggiare, per tornare su, in certi altri casi no. Certo, è molto strano, siamo quasi da Guinness dei primati, che è una squadra che gioca comunque tante partite, 7 di campionato più 2 di Coppa, e si trova praticamente in quasi tutte, tranne una, ad essere in vantaggio, sempre in svantaggio di gol. Una cosa veramente difficile da immaginare. In una sola occasione l'Inter in partita ufficiale è stata quest'anno in vantaggio, in tutte le altre no. E questa è questione di mentalità, che io credo sia anche la cosa più semplice su cui incidere, perché comunque l'anno scorso non era così. Molti dicono e scrivono: l'Inter di quest'anno gioca meglio ma ha meno punti dell'anno scorso. Io ho anche qualche perplessità sul giocare meglio. Giudizio estetico assolutamente, però giocare a calcio vuol dire tante cose. Io credo significhi anche l'equilibrio con la fase difensiva, e questa squadra onestamente ne ha pochino. L'esempio è la Juve, che senza aver fatto praticamente dall'inizio della stagione, forse ha fatto mezz'ora veramente, che di quella che ti rimane negli occhi, contro il Sassuolo, non me ne viene in mente altra di qualità abbagliante da parte della Juve, ma questo non serve, perché poi alla fine se non ti fanno mai gol dietro, se anche nei momenti in cui sei poco brillante comunque hai la pazienza, sai aspettare e poi trovi che ti fa il gol, alla fine vinci le partite. Questa è la differenza fra la Juve e tutte le altre, perché tutte le altre, da ieri ci mettiamo anche il Napoli, hanno questa invece fragilità o comunque questa incapacità di essere costanti. L'Inter fra tutte queste forse è quella in assoluto più pazza, più umorale, anche perché ci mettiamo il cammino in Europa che fino a questo momento è catastrofico e impone a questo punto all'Inter veramente di stare gli straordinari in Europa League, ammesso che voglia andare avanti, nel senso, cioè ammesso che decida che l'Europa League deve essere un tipo di territorio sul quale concentrarsi in questa stagione. Ma si può anche decidere che non interessa, del resto con recentissimo passato in Europa, ma sono ironico. Grazie Tommaso Labate. Ciao Tommasino, stasera Tommasino, che è un esperto di politica, dopo il sì o no Renzi Zagrebelsky l'altro giorno a Tiki Taka ci sarà Matteo Renzi che spiegherà ai suoi figli Batistuta, perché oggi sai che Batistuta Day lo avremo collegato, quindi credo che sarà abbastanza divertente e chi si occupa di questo. Poi settimana prossima avremo Zagrebelsky, che chi potrebbe spiegare Zagrebelsky per la par condicio? Boniek. Battuta, non voglio dire. Nessuno. Troveremo qualcuno. Troviamo qualcuno. Io mi scuso con Omar da Torino, però lo riprendiamo subito dopo il GR delle 15, quando parliamo di Formula 1, cioè Leo Turrini, e poi ve l'ho detto, vi spieghiamo la VAR, la moviola in campo, come avrebbe potuto cambiare i risultati di questa domenica, ammesso che qualcosa fosse da cambiare. 800 24 0024, vi aspetto dopo il GR delle 15. Tutti convocati. Vado a giocare, ci vediamo dopo. Tomlinson, good morning. Ça va, vous qui nous écoutez chez vous à la maison? Bonjour Julie. Bonjour. Das antirassistische Netzwerk Sachsen-Anhalt. 24 mattino di Alessandro Milan. Ma dove eravate finiti? Il Parlamento è aperto ogni giorno dalle 6:30, caffè, brioche e giudizi in libertà. E alle 7:20 vi leggo i giornali gratis. Alessandro Milan, il boss dell'informazione. Oh, vi aspetto, è dal lunedì al venerdì. E siccome la carta costa, scopriremo anche l'articolo più inutile del giorno. Ma chi se ne frega! Cos'è stato? C'è qualcuno? Sono io, Dylan Dog. Quel Dylan Dog. E lui è il mio amico Grucio. Ciao, bello. Intenditrice, Pianta, la Grucio, non possiamo. Siamo già in ritardo. Mi aspettano a Radio 24. Che cosa devi fare? Vogliono che racconti le 8 storie più emozionanti dei miei 30 anni di avventure. Ma quando ci risentiamo? Su Radio 24 tutti i sabati alle 15. E quando vuoi, in podcast su radio24.it. Il segnale orario vi è offerto da... Unica. L'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Tutti convocati. Abbiamo ancora una mezz'oretta insieme, quindi vi invito 800 24 00 24 per intervenire in diretta, come ha fatto Omar da Torino, cui adesso do immediatamente la linea. Prima però vi leggo che cosa ha detto Ventura oggi, conferenza stampa, perché inizia la settimana degli impegni della nazionale, che per l'Italia significa Italia-Spagna e poi Macedonia-Italia. Ventura su Balotelli e il suo possibile rientro in gruppo. Ho detto dal primo giorno da commissario tecnico che non chiudo le porte della nazionale in faccia a nessuno. Balotelli ha ripreso a giocare e soprattutto a segnare, ora serve continuità. Sulle sue doti tecniche non si discute, casomai lo si fa su tutto il resto, ma gli ho mandato la preconvocazione perché ha ripreso a giocare e a segnare. Questo Ventura sull'ipotesi di un ritorno di Balotelli con la maglia della nazionale, che divide già, perché stanno già arrivando dei messaggi tra chi sostiene che Balotelli debba far parte di questa nazionale e chi dice che invece la storia di Balotelli si deve essere chiusa 2 anni fa. Omar? Sì, pronto? Eccoci. Eccomi, finalmente riesco a intervenire. Grazie, allora, di aver intanto atteso. Vi ringrazio, ma ci mancherebbe, grazie anche a voi. Allora, una considerazione, poi faccio una domanda. La Juve, quando ha giocato, cioè, secondo me, quando ha giocato con l'Inter, sembrava un pochino presuntuosa, è entrata con lo smoking e faceva le sue giocate, diceva tanto prima o poi vinciamo. Però poi dopo lo schiaffo dell'Inter è riuscita comunque a mettere la tuta da operaio contro il Palermo in una bruttissima partita, poi ha portato 3 punti. Stessa cosa comunque con l'Empoli ieri, non è che è stata brillantissima, ma il risultato l'ha portato. La mia domanda è questa: ieri gli allenatori, sia Sarri che Spalletti, quasi hanno snobbato oppure hanno deviato il discorso, la Juve è forte, come mai questo? Nel senso, l'allenatore non ha un obiettivo, non so, un manager ha un obiettivo, quando firma e dicono guardi, le ho fatto 7 acquisti, le ho fatto questo, adesso mi deve lottare per lo scudetto. Sì, io credo, Omar, che Sarri e Spalletti sappiano bene che la Juve è superiore e sarebbero dei pazzi a dire il contrario e non lo fanno, però c'è modo e modo di spiegare che è un campionato complicato ed è di questo che si sta discutendo, e il pensiero che ha Sarri sulla forza della rosa del Napoli è diverso non tanto dal mio, da quello di Pierluigi Pardo o di tanti che scrivono, ma c'è anche chi dice che ha semplicemente detto in maniera brutale quello che pensano tutti. Il sospetto è che il pensiero sia diverso da quello che ha in testa De Laurentiis, che ha forse una concezione della rosa del Napoli, soprattutto degli investimenti fatti sul mercato, profondamente diversa, e questo credo sia pericoloso. Questa spaccatura tra presidente e allenatore io credo che alla lunga possa fare il male del Napoli. Paolo da Rimini, Paolo. Grazie per la convocazione. Grazie intanto a te. Ho letto e soprattutto ascoltato stamane su Roma Inter di ieri sera dei giudizi partita spettacolo. Io sono tifoso romanista, ma mi permetto di dissentire. L'Inter, a parte un po' di buona volontà, non ci ha messo altro. E la Roma ha una difesa imbarazzante e poi ha lasciato il pallino all'Inter del gioco per ripartire velocemente. Ha fatto tante occasioni da rete, ma poi non la mette mai dentro. Quindi non è una tattica così vincente. Spalletti aspetta Rudiger, lo aspettiamo anche noi, ma temo che ci sia da fare più di un correttivo se la squadra vuole essere un po' più competitiva in Italia e anche in Europa, perché arrivare in fondo in Europa a me non dispiacerebbe per nulla. No, ma credo che in generale non dovrebbe dispiacere a nessuno. Rudiger sta per tornare e io penso che darà una mano importante alla Roma. Un amico scrive: Spalletti ieri ha dichiarato che per lui le partite vanno vinte tutte, quello è il suo obiettivo. Sì, era però anche un modo per evitare qualsiasi discorso sulle possibilità di lottare con la Juventus per lo scudetto. La Juve ha bisogno di Rudiger, ha bisogno di un difensore, ha bisogno un po' di tranquillità. A me ieri non è piaciuta, così come non è piaciuto l'Inter, perché se tu concedi più di 10 palle gol chiare al tuo avversario è evidente che c'è qualcosa che non va bene e non è una partita giocata bene, non è una partita spettacolare, al di là, ripeto, che evidentemente tutti ci siamo divertiti ieri sera a vedere Roma-Inter. A proposito, mi fate sentire De Rossi, ieri è stato pescato in un video mentre insultava i tifosi esultando con Dzeko dopo il gol dell'1-0, lui ha detto non è vero e poi ha fatto un discorso sull'ambiente romano. Se iniziamo a distaccarci noi per primi da quello che è questo ambiente, che non è uno dei più facili, allora staremo bene, perché poi lo stadio, quelli che ci sono, noi li ringraziamo perché sono stati bravissimi con noi in queste partite. Manca la grossa differenza è che manca la parte più importante del nostro stadio, e anche in questo senso noi dobbiamo fare qualcosa a tutti i costi. Abbiamo fatto poco, secondo me, noi giocatori in questi mesi. Bisogna fare qualcosa, bisogna parlarne un po' di più, perché non penso che i tifosi abbiano sempre ragione, ma anzi a volte sono su linee di pensiero diametralmente opposte alle mie, ma questa volta bisogna stare vicini non perché tifosi, ma perché hanno ragione. Stavolta i tifosi della Roma e della Lazio hanno ragione. Secondo me non è giusto quello che sta capitando, e quindi bisogna fare qualcosa in questa direzione, perché devono tornare allo stadio. O se no, come ha detto Baldissoni, andare a giocare da un'altra parte, perché quello che sta succedendo non è giusto. Due pesi e due misure non si fa. Domani, se volete, ci torniamo. Parliamo, mi dite cosa ne pensate. Alessio da Latina. Sì, ciao, buongiorno. Ciao, dimmi. No, io rischio di andare un po' fuori tema, però volevo che parlasse anche un po' del Toro, cioè. Io mi seguo sempre, sei tanto bravo, un'ora a parlare del Napoli, della Roma, insomma. Ma ieri ne abbiamo parlato abbondantemente con Eraldo Peci, però prego Alessio, dimmi cosa vuoi dire del Torino. Magari riservarsi un po' più di tempo, anche se squadre diciamo un po' minori, comunque il Toro. Sì, va bene, ma non perdere 30 secondi e dirmi che vorresti più spazio. Dimmi qualcosa del Torino, ti ripeto, ieri ne abbiamo parlato tantissimo con Eraldo Pecci, ma ne parliamo anche oggi, dimmi cosa vuoi dire. Sì, ma per carità, prego. No, cioè il Toro insomma che sta diventando un po' come una realtà, insomma, tutto qui. Il Toro ha trovato l'allenatore giusto, ha trovato l'allenatore da Torino. Io poi personalmente, ma l'ho detto ieri, non condivido le critiche a Ventura, anche se negli ultimi mesi il Toro non giocava bene. Credo che oggi Mihajlovic raccolga anche molto di quello che è stato seminato l'anno scorso con ragazzi giovani presi nel mercato, tanti italiani che avevano bisogno di calarsi nella realtà. Oggi Mihajlovic sta facendo sintesi, però c'è tanto, c'è un attaccante Belotti che hanno pochi in Italia. Parliamo un po' di Formula 1. La sua delusione, la sua rabbia, cambia tutto di nuovo, cambia tutto per il Gran Premio, cambia tutto per il Mondiale. Una grande battaglia, pulito, duro ma pulito. Sì, anche quando ho visto Lewis fuori, ho detto questo gara è il mio. Era fuori controllo lui. È andato dentro troppo forte, perché anche noi eravamo sul limite, lui era un missile all'interno, infatti non ha tenuto, è andato dritto. Sì, non buono da parte sua, perché andare così nella prima curva e mi ha rovinato la gara, infatti. Sebastian è stato molto lucido, prima di tutto si è scusato con la squadra e poi mi ha detto, sai, combattevamo spalla a spalla con Max, nel momento in cui mi sono trovato alla prima curva, Rosberg ha seguito la sua traiettoria, io ero molto veloce, l'ho toccato, Max ha stretto un po' e quindi è stato un susseguirsi di toccate. Lui ha detto non voglio accusare nessuno, né Nico né Max. Carissimo Leo Turrini, come va? Ma intanto vorrei smentire quello che hai detto prima, ci siamo divertiti tutti a vedere Roma-Inter. No, io ho detto il contrario. Sono divertito affatto, voglio dire, sarebbe stato molto meglio uno squallido 0-0. Beh, però ma tante occasioni, tanti tiri, notizie, dai, insomma. Sì, vabbè, sì. Il risultato alla fine è quello che conta. Andiamo alle notizie. Notizie traffico, sulla Pero Corbano c'è una coda. Lunghissima. E la Mercedes Hamilton in fiamme. E in più c'è uno al volante di una Panda che tampona sistematicamente tutti quando si riparte, ed è quella di Sam Vettel. Cosa volete che vi dica? Cosa ci tocca sentire nella domenica di Sarri che si arrende? Hamilton che dice che ce l'hanno tutti con lui, gli sabotano il motore. Ma no, allora guarda, io credo che sicuramente la delusione del corsaro nero in Malesia sia stato più che comprensibile, perché lui aveva fatto tutto perfetto dalle qualifiche alla gara, è rimasto a piedi. Però io che ci sia un complottone orchestrato in gran segreto dai vertici di Stoccarda per far vincere il titolo a Rosberg, non ci credo. Certo, adesso Nico è in una condizione, non essendo fermo sulla Pero Cormano, di grande vantaggio, però Hamilton ha ancora il destino nelle sue mani, perché ci sono 5 gran premi e se li vince tutti, cosa che non gli è affatto preclusa con la macchina che ha a disposizione, il campione resta lui, non ha bisogno di ritiri di Rosberg, cioè, non è facile perché è sotto di 23, però ce la può ancora fare. Diciamo la verità, non è facile anche perché Rosberg è tornato dalle vacanze con la testa di uno che non aveva voglia di mollarla. Guarda, io l'altro giorno ne parlavo con Stefano Domenicali, l'ex capo della Ferrari, e lui mi diceva una cosa che io condivido profondamente, cioè in una stagione che è stata molto noiosa al vertice, perché vincono sempre quelli e purtroppo quando non vincono loro vincono i bibitari, perché la Ferrari non c'è mai, e la vera notizia è stato il salto di qualità di Rosberg. Noi pensavamo tutti, dopo aver perso due mondiali di seguito contro i compagni di squadra, fosse sulla strada della barrichellizzazione da Rubens Barrichello gregario brasilero del mitico Sumi, e invece ha avuto una reazione a livello proprio mentale, perché è sempre stato capace di guidare, assolutamente stupefacente. È diventato dominante, quello che non è più stato Hamilton, qualcuno scrive, è l'effetto Von. Ma Von, Rihanna, no, non lo so, sai com'è, Hamilton ama molto i piaceri della vita. Guarda, forse si tratta soltanto di una coincidenza, un po' come la difesa dell'Inter è una coincidenza, diciamolo. Hamilton è arrivato alla pausa estiva saldamente padrone del campionato, aveva recuperato il distacco iniziale. Cosa abbia fatto in quel mese di riposo non è dato sapere. Fatto sta che dopo, per un motivo o per l'altro, non ne ha più vinta una. E qualcuno potrebbe anche immaginare che abbia ecceduto in bagordi. Adesso ci siamo. Perché si torna in pista subito. Suzuka, ecco, Spa, il circuito più bello del mondiale. È veramente l'università dei piloti. Se Hamilton fa Hamilton, in Giappone deve vincere. E dopo ne riparliamo. Dopodiché vogliamo parlare di Vettel. Ma guarda, ne parliamo perché Luca chiede quanti premi rododendro dobbiamo assegnare per ieri. Hamilton vince il rododendro d'oro, si trova a rosicare non per colpa sua, e poi dobbiamo darlo sicuramente a Seb, l'altro rododendro, perché insomma questa è la quarta volta nella stagione che il tedesco della Ferrari è coinvolto in un incidente al via. Cioè nel 25% dei gran premi Vettel ha avuto delle difficoltà allo scatto. Si sta comportando come un Verstappen qualsiasi. Cioè voglio dire, talvolta non è stata colpa sua, ma ieri sicuramente insomma il responsabile unico dell'incidente, poi l'ha messo, si è scusato. Guarda, io credo questo sinceramente, che Seb stia tentando di compensare con l'azzardo, quindi alzando la soglia del rischio, i limiti purtroppo plateali della monoposto. Però quando tu azzardi ti esponi al pericolo della figuraccia, come è accaduto ieri. E allora l'interrogativo qual è? Vettel è il problema o ha un problema? Io, come sempre, nei momenti in cui si mandano le streghe al rogo, sto con la strega, cioè sto con lui, voglio dire, è chiaro. Quindi che ieri ho sbagliato. Un problema. No, ha un problema nel senso che lui è frustrato dalla debolezza del mezzo. Cioè, a primavera veramente lui era convinto, e non era l'unico, che la Ferrari sarebbe stata in grado di battere la Mercedes o comunque di giocarsela in tutte le corse. Quando ha capito che così non era, e addirittura la distanza, la Ferrari va più piano anche della Red Bull, lui è andato in crisi, questo è evidente. Però ripeto, io preferisco un pilota che non si rassegna a costo di sbagliare a un pilota che si trasforma in un mestierante. Certo, adesso si tratta di capire quando rivedremo il Vettel migliore compatibilmente con la vettura che gli viene data da guidare, perché che gli metteranno a disposizione. Insomma, la tristezza è questa, che all'inizio della stagione vinceva già la Mercedes, d'accordo, ma la rossa staccava la Red Bull di mezzo si è ribaltato tutto, diciamo la verità, ieri arriva bene, aveva anche la faccia di uno che ha capito che la Ferrari non arriverà mai seconda. Allora, la sensazione non è una sensazione, mi correggo, i fatti ci dicono questo, che Red Bull ha dimostrato come anche in assenza di test che sono assolutamente vietati eccetera sia possibile migliorare la prestazione della macchina nell'arco della stagione, perché ti stavo dicendo sulla Pero Cormano, quando è cominciato il campionato la Red Bull arrivava alla bandiera a scacchi mezzo minuto dopo Vettel e Raikkonen, adesso sta stabilmente davanti. Quindi la differenza l'ha fatta quella cosa lì, cioè quello che i tecnici sapientoni chiamano lo sviluppo. E che in Ferrari evidentemente stanno facendo fatica a fare. In Ferrari siamo al sottosviluppo. Leo, ci vogliamo fare. Leo, ti voglio chiudere con un messaggio da casa. Povero Turrini, ferrarista interista. Ti voglio far sentire di Francesco Furioso di ieri. Il mio amico Eusebio. È ovvio che ci sono delle dinamiche che poi portano la partita, la girano in modo diverso. Dove la stavamo dominando, avevamo il pieno controllo della gara. certi episodi condizionano, però il Milan è più forte sotto tutti i punti di vista, sia come società che insieme in generale, e per quello hanno, si vede che hanno meritato di vincere. La teoria del complottone, anche il tuo Sassuolo, Leo. Sono questo, interista, ferrarista e sassolese, alla fine della domenica mi sono anche preso una storta, una caviglia. Quindi proprio non so di peggio cosa potesse accadermi, un fulmine che venisse a incenerirmi. Doveva andare così. Capita, dai. passa Leo, passa. Ci rifaremo sulla Piero Corbano, sempre Hamilton fermo. E attenzione a quella panda che freccia quando si riparte, che non mi urti, ce l'hai al volante. Ciao Leo. Buona settimana a tutti. Ciao. Alla prossima, ciao. Poi adesso arriva la moviola. A proposito, ve l'ho promesso, Luca Marelli, ex arbitro di Serie A. Ciao Luca. Ciao. Allora, divertendomi a sentire Turini, Leo Turini non ha vissuto una grande domenica. Abbiamo 3 minuti e mezzo. Cerchiamo di capire se con la VAR operativa e non sperimentale offline come è stato ieri sarebbe cambiato qualcosa in Sassuolo-Milan. Cioè, volgarmente, la moviola quando sarà? Interverrà sempre su qualsiasi caso oppure dobbiamo dimenticarcelo? No, io credo di no, io credo che ci saranno dei casi ben specifici. Per fortuna c'è un anno per sperimentare offline questa nuova tecnologia, perché altrimenti perché in questo momento non siamo pronti. Non siamo pronti perché non ci sono ancora delle linee guida precise. Vi faccio un esempio molto semplice: il rigore di Donnarumma, evidente, palese, abbiamo visto tante volte in Movima, riproposizione televisiva. C'è un problema: il problema è che il pallone non è mai uscito dal campo. Quando lo si guarda, quando si. Ecco, questo è un problema che andrà risolto, perché per quanto riguarda per esempio il non fallo subito da Niang, c'è stato un fischio dall'arbitro guida. In quel caso la VAR interviene e a gioco fermo viene deciso per una punizione, probabilmente, o qualcosa si deciderà poi a favore del Sassuolo, perché il rigore non c'è. Ma nel caso di Donnarumma che fa? Si aspetta la prima interruzione. Se la prima interruzione arriva dopo 2 minuti, che facciamo? Dietro i 2 minuti, quindi ecco. non è scontato che ci sarebbe stata una soluzione diversa su quel calcio di rigore. Ma guarda, ci sarà una soluzione diversa solamente quando si troverà una soluzione per ovviare al fatto che il pallone non esce. Cioè, o si ferma il gioco e poi si riprende, come, non lo so, una rimessa da parte dell'arbitro. Anche lì bisognerebbe decidere poi dopo che tipo di rimessa, perché una rimessa da parte dell'arbitro presuppone 2 avversari che si contendono il pallone. Questo è un altro discorso che andrà approfondito. In questo momento non c'è una soluzione chiara. È il motivo per cui serve un anno di sperimentazione, e con questo rispondiamo ad alcuni messaggi di chi dice allora non cambia nulla, è tutto inutile. No, semplicemente si sta sperimentando. Ovviamente io credo che sul gol di mano di Aja Pong avrebbero avuto le idee chiare, quelli della VAR. Guarda, avrebbero avuto le idee chiare fino a... io sono stato convinto perché dobbiamo parlare... Io l'ho sollevato ieri il problema. Diciamo che l'avrebbero dato buono, perché a termini di regolamento avrebbero finito per concederlo. Esattamente, perché il fallo di mano per essere punito deve essere volontario. Di volontario nel tocco di mano dell'attaccante del Sassuolo ci vedo ben poco. E perciò poi alla fine invece se viene deciso per l'annullamento, l'ammonizione è automatica, il regolamento che lo prevede, l'ammonizione per il giocatore che tenta di ingannare l'arbitro segnando con una mano. Però effettivamente è un caso molto particolare. Sì, caso che avrebbe, credo, creato dei problemi a chi giudica con davanti poi l'applicazione del cavillo e magari meno a sensazione come ha fatto, io credo, giustamente l'arbitro in campo. Abbiamo un minutino. Torino-Fiorentina, l'altra partita che aveva la sperimentazione della VAR. Il gol del Toro, quello di Iago Falche, viziato all'inizio dell'azione da un fallo di mano di Iago Falche. Sarebbe stato annullato o no? Passano 8 secondi tra il fallo di mano e poi il momento in cui si concretizza il gol. Guarda, credo che 8 secondi siano un lasso di tempo accettabile. Ecco, secondo me, poi una volta rivista, torniamo al gol del Sassuolo annullato. Il fallo di mano era volontario? A mio parere no. Perciò, anche se c'è un vantaggio per il giocatore del Torino, se io fossi stato in cabina moviola non l'avrei fatto annullare. Però l'avresti analizzato, cioè fa parte degli episodi che si possono analizzare. C'è anche, dicono le moviole, un rigore per la Fiorentina non dato, un contatto su Kalinic. Sì, l'ho visto stamattina su tua indicazione, effettivamente il fallo c'è. È possibile che magari quelli della VAR possano, certo, chiamare l'arbitro segnalandoli che, cioè, perché questo prevede il protocollo così come lo stanno disegnando. Magari ne parliamo anche nelle prossime settimane, se ti va, Luca. Facciamo questo percorso. Grazie a Luca Marelli. Grazie a voi. Grazie Luca Marelli, io mi fermo qui, ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Alvise Falzone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, torniamo domani dopo il GR delle 14, ciao. Pisa Rosso, devi pisare stop, sennò il video va avanti 4 ore. Dai!